Del mondo che mi circonda, quello che ti posso dire, che dovrei ancora intuire, come fai a giocare di sponda, come un muro di gomma, tu sei un boomerang che non torna, senza una data né una firma. Una casa come te, ho un lavoro ben pagato come te, ho una moglie che va a letto anche con te, ma non riesco ad essere felice mai, perché più la vivi o la fonda, come un muro di gomma, sei un risultato che non torna, senza una data né una firma. Ho comprato una casa come te, ho un lavoro ben pagato come te, ho una moglie che va a letto anche con te, ma non riesco ad essere felice mai, perché ho comprato una casa come te, ho un lavoro ben pagato come te, ho una moglie che va a letto anche con te. Come te.